storia vera, profonda, politica, direi quasi culturale, tra Tremonti e Berlusconi e il suo governo, perché Tremonti, noi l'abbiamo detto semplificando molto, ma il concetto è quello lì, Tremonti è socialista, mentre Berlusconi è liberale, e quindi sono due visioni diverse di come affrontare e di come impostare l'economia di uno Stato. E quindi lì è la divergenza profonda, cioè quando Berlusconi dice una manovra tipo quella impostata adesso ci fa perdere consenso elettorale, non è che lo dice da irresponsabile, perché non è che lui, immagino, non, da quello che ne so, che Berlusconi tenga davanti il consenso elettorale alla tenuta dei conti. Dice un'altra cosa, dice che ci sono altre strade per tenere i conti a posto, che sono strade diverse da quelle che prende Tremonti. Ora si è giunti, secondo me, a una situazione di stallo, perché, come dire, non voglio interpretare Berlusconi, ma credo che Berlusconi e questo governo farebbero volentieri a meno di Tremonti per questo motivo. Ma non è possibile, perché in questo momento sfilare Tremonti vorrebbe dire molto probabilmente aumentare i problemi sui mercati internazionali, perché giustamente Tremonti dai mercati internazionali è ritenuto affidabile, è ritenuto un punto di riferimento, è ritenuto un punto